E vogliamo insieme oggi orientarci. Abbiamo cominciato a farlo domenica scorsa, abbiamo continuato mercoledì con l'incontro di condivisione e lo faremo anche oggi insieme con quello che è un messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore. Dio vuole che noi siamo orientati, Dio vuole che noi abbiamo una vita ben orientata. E la scorsa settimana, domenica scorsa, abbiamo visto 5 modi per non disorientarci. Ce li ricordiamo, 5 cose da non fare, piuttosto che dire delle cose scontate. Ho chiesto allo Spirito Santo, dammi delle cose che magari non si dicono spesso, ma sono fondamentali per non perdere l'orientamento in Gesù. E la prima cosa è non andare a naso, ve lo ricordate? Non agire distinto. Se agisci distinto, non sei orientato nella volontà di Dio. La seconda era non assecondare il peccato, perché se assecondi il peccato non puoi certamente scoprire la volontà di Dio per la tua vita. Dio vuole sbloccare nuove occasioni, nuove opportunità, nuovi territori di conquista e ogni passo è definito, è determinato dalla tua obbedienza. Come abbiamo visto e stiamo vedendo nella vita di Mosè, ogni suo passo di obbedienza lo ha portato a camminare nel piano che Dio aveva stabilito per lui e il popolo di Israele. Il terzo era non seguire le emozioni, non ascoltare e non farti guidare dalle emozioni. Le emozioni, la rabbia, la tristezza, la disillusione, la nostalgia, ogni forma di emozione che è giusto che noi viviamo perché è buono, Dio ha dato a noi delle emozioni, possono però essere una pessima guida, un pessimo navigatore per la nostra vita. Se siamo guidati dalla rabbia, se siamo guidati dall'amarezza, se siamo guidati dalla nostalgia o se siamo guidati da un senso di tristezza, noi non possiamo essere ben orientati in quello che è un percorso che Dio definisce nella nostra vita, non dalle emozioni che proviamo, ma dai principi che Lui ci affida. Amen? Non vivere per emozioni, non vivere per emozioni. Il quarto era non agire senza aver pianificato. Fermati, prega, medita, pianifica, stabilisci, conta. Non essere insomma azzardato nelle scelte che fai. Dio ci invita ad avere una vita pianificata. Gesù ha fatto ogni sua cosa su questa terra secondo una linea di marcia ben stabilita e ben pianificata. E molto spesso la pianificazione che noi possiamo ottenere da Dio è quella che comincia la mattina in preghiera, affidando a Lui la nostra giornata e chiedendo a Lui guida, e Lui ci indica la strada. Pianifica con Dio quello che devi fare, ma non agire distinto. Questo si collega al primo punto. L'ultimo punto è non ragionare con la tua testa. Abbiamo letto, come c'è scritto in Proverbi 3 con estrema chiarezza, non stimarti saggio da te stesso. I consigli, le opinioni, l'abbiamo letto qualche giorno fa, Jetro, il suocero di Mosè. Io sto dicendo che abbiamo letto, perché do per scontato che stiamo tutti leggendo Esodo. Oggi a quale capitolo ci troviamo di Esodo? 19, bene, bene, benissimo. Quindi qualche giorno fa abbiamo letto di Jetro che dà qualche consiglio a Mosè. Mosè avrebbe potuto benissimo dire, ma chi sei tu per consigliare me? Io sto guidando un popolo di decine di migliaia di persone, tu non fai altro che guidare un gregge di pecore, come puoi tu, pastore, insegnare me, condottiero scelto da Dio, cosa fare, come decidere? Oppure avrebbe potuto dire Mosè, io prendo consigli da Dio direttamente, lui mi parla tu per tu, non ho bisogno del tuo consiglio. Invece Mosè ci dà una lezione di umiltà e di saggezza, prendendo il consiglio di Jetro, applicando il consiglio di Jetro e beneficiando di quel consiglio. Sii umile e scegli di non ragionare con la tua testa, non stimarti saggio da te stesso, scegli buoni consiglieri per la tua vita e sarai orientato. Ora, tutto questo che abbiamo visto la scorsa settimana ha a che fare con l'orientamento individuale. Ed è importante che noi siamo orientati individualmente. Io ho voluto proprio parlare dell'orientamento che parte da ciascuno di noi, perché non possiamo parlare di un orientamento di chiesa trascurando quello che è l'orientamento individuale che ciascuno di noi deve vivere con Dio. Però oggi voglio parlare di lavorare di squadra, essere chiesa è orientarci insieme, perché il privilegio che noi abbiamo in Cristo Gesù è che noi siamo nati di nuovo, siamo nuove creature, questo è quello che dice la parola di Dio, e abbiamo una relazione con Dio, ma questa non è l'unica cosa che ci definisce. La parola di Dio dice che noi cristiani, e il termine cristiano viene usato molto molto poco, l'identità più utilizzata è in Cristo, noi in Cristo abbiamo un doppio beneficio in quello che viviamo, cioè avere una relazione diretta con il nostro Padre in virtù del sacrificio di Gesù Cristo e una relazione con la Chiesa. Noi diventiamo parte tutt'uno di Cristo e del suo corpo e le due cose non si possono scindere. La tua benedizione nel vivere Dio nella tua vita sta nell'avere una relazione con Lui e nel relazionarti e beneficiare della benedizione della Chiesa, della famiglia di cui fai parte. Quindi è una doppia cosa quella che noi viviamo. Ed è importante che noi riconosciamo dove siamo deboli. Forse sei forte nella tua relazione con Dio, giornaliera, quotidiana, individuale, sei debole nel fare squadra e vivere questo con la tua famiglia, con la tua chiesa. Oppure sei forte nel vivere le attività di chiesa, essere parte della chiesa, ma sei debole nella relazione tua quotidiana con Dio. Ora le due cose vanno di pari passo e solo nel viverle appieno entrambe noi troviamo orientamento e viviamo una vita completa e benedetta. Io ricordo che qualche anno fa, forse molti di voi si ricordano che ho seguito la chiesa nascente a Mottola e quindi mi ritrovavo ad andare a Mottola 3-4 volte alla settimana e tra le tante cose che si facevano, quindi bellissime, tempi di preghiera, di digiuno, Giuseppe, ti ricordi i nostri tempi di digiuno, Giovanni? Che poi venivano puntualmente recuperati da una cena che valeva il pranzo perso più tutti i futuri digiuni possibili che avremmo potuto fare. Quindi questo sperimentavamo, tempi di preghiera, di digiuno, di adorazione. E poi c'era un'altra attività a fine evangelistico che abbiamo cominciato a fare, che erano le partite di calcetto. Io andavo a Mottola per giocare a calcetto, perché il nostro obiettivo era raggiungere i giovani. E quindi mi presentai a Mottola, mi presentavo in questa occasione vestito proprio a puntino, cioè con la divisa, le scarpe, i parastinchi. E le prime volte, io mi ricordo che scendevamo in campo, no? C'è quella selezione iniziale, non so quanti hanno giocato mai a calcetto, c'è solitamente, questa è una regola mai detta, ma che si attua in tutte le partite. Prima di tutte le partite si sceglie la propria squadra, no? E ci sono due persone a cui viene assegnato il ruolo, il compito di scegliere i membri della propria squadra. E evidentemente a Mottola, non conoscendomi bene ancora, volendomi anche onorare, vedendomi anche ben vestito e quindi l'apparenza dava a dimostrare che ero un calciatore professionale, venivo subito scelto, quindi subito c'era chi faceva gara, no, nel nominarmi. Poi hanno visto che l'apparenza inganna, no? E quindi si sono resi conto che, diciamo, era tutto perfetto in apparenza, però mancava la sostanza, quindi non riuscivo a giocare bene a pallone e in più una cosa che io amavo fare, a mio discapito però e a discapito della mia squadra, è che quando giocavamo a calcetto mi piaceva dare il benvenuto alle persone che si avvicinavano, no? Agli spalti o chi ci veniva a vedere a giocare, quindi mi avvicinavo alla rete e cominciavo a conversare, no? Mentre la mia squadra si affannava a cercare di mantenere il punteggio e fare altri gol, e quindi a un certo punto sono diventato proprio odioso e venivo scelto per ultimo, non so perché, e sono ancora in questa elaborazione del perdono nei confronti dei mottolesi, è una delle ragioni per le quali non vado più a Mottola, o vado di meno, scherzo. No, però quello che voglio dire è che, vedete, giocare di squadra prevede una scelta individuale. Il tuo scendere in campo con una squadra significa beneficiare della forza e del vigore di tutti gli altri, ma significa anche metterci del tuo. Siamo d'accordo su questo, no? Se poi lo riportiamo, lasciamo la squadra di calcetto, diciamo, amatoriale, pensiamo proprio agli atleti professionisti. Beh, loro hanno una disciplina che è sia vissuta a un livello di gruppo, e quindi ci sono allenamenti che vengono fatti, partite, schemi di gioco che vengono provati, ruoli che vengono definiti, testati e appuntati, e poi c'è anche un allenamento e una disciplina individuale. E gli atleti professionisti fanno danno attenzione a ogni equilibrio della loro vita, dalla dieta al loro ritmo del sonno, a come si allenano giornalmente per potenziare i loro muscoli deboli o per recuperare un eventuale infortunio. Quindi vedete, io sto parlando e vi sto mostrando questa illustrazione perché in realtà nella Bibbia ci viene presentata la Chiesa proprio in questi termini. Noi siamo in Cristo e in Cristo partecipiamo ad una vita comunitaria. Quindi ci sono due livelli che viviamo come credenti, il livello individuale e personale e il livello di gruppo. Noi siamo chiamati a una disciplina personale e individuale e a una disciplina di gruppo. Noi siamo invitati a giocare una partita individuale, ognuno nella propria quotidianità, ma siamo anche chiamati a una vita e a un percorso che viviamo come comunità e insieme. Questo è quello che ci viene mostrato nella parola di Dio. Romani 12, ad esempio, dice che siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo un solo capo, che è Cristo Gesù, il capo della Chiesa, e tutti noi siamo membra di questo corpo. E se ci pensate, ogni membro del nostro corpo è collegato al capo. Dal capo partono tutti i filamenti nervosi che si ramificano in ogni singolo membro del corpo, anche il mignolo del tuo piede è collegato al capo, e questa è l'illustrazione perfetta della Chiesa, noi tutti collegati a Cristo Gesù. Ma Romani 12 o 1 Corinzi 12 ci parla anche del fatto che siamo collegati gli uni agli altri, siamo membra gli uni degli altri. E quindi il mio intento oggi è proprio farci comprendere quanto è importante per noi come Chiesa avere un orientamento di gruppo, di squadra, un orientamento che è della famiglia, è della famiglia pieno Vangelo, della Chiesa pieno Vangelo, per il tempo che stiamo vivendo, per ciò che siamo e per ciò che Dio ha in mente per noi. E ho dovuto riflettere a quello che abbiamo vissuto nel 2020, e quanta guida profetica Dio ci ha dato nel 2020. E poi ho dovuto riflettere alle parole del pastore Mike la seconda domenica dell'anno, per chi ha ascoltato il messaggio. Nel 2020 abbiamo vissuto un anno nuovo, completamente diverso, ci siamo immessi, non a nostra scelta, ci siamo ritrovati in un'epidemia. Che ha sconvolto l'equilibrio di Chiesa e ci ha portato, io spero, ha portato tutti noi e stia portando tutti noi a una riflessione profonda di che cos'è essere Chiesa. E c'è una cosa che il pastore Mike ha detto e che mi ha toccato particolarmente perché so che è vera non solo per la sua Chiesa a Watford in Inghilterra, ma è vera anche per noi Chiesa Pieno Vangelo qui a Modugno e a Mottola, e cioè che i membri della Chiesa che godevano di un buon rapporto e una buona relazione con Dio stabile e quotidiano sono stati quelli che hanno affrontato la crisi dell'epidemia meglio. I membri invece che non godevano di una buona relazione stabile, forte, quotidiana con Dio, ma fragile, debole e magari circostanziale, dipendente dalle attività di Chiesa, ha vissuto peggio la crisi dell'epidemia. E noi oggi possiamo guardarci attorno, possiamo guardare a noi stessi e renderci conto che le attività di Chiesa compromesse in questo tempo ci possono far capire quanto siamo forti nella nostra stabilità e nel nostro rapporto con Dio individualmente ogni giorno. E così durante l'anno, il 2020, noi siamo partiti con un motto, uno in più. E io credo che Dio abbia voluto guidare profeticamente la nostra Chiesa a comprendere che l'attività evangelistica non può essere solo qualcosa che noi viviamo a livello di comunità, di attività, di chiese, di programmi, ma è qualcosa che deve essere riportata all'individualità di ogni credente che prende impegno di pregare, lottare, cercare e portare salvezza alle persone che Dio ci indica. E quindi è stato bello per me rivedere il 2020 in quest'ottica. Dio lo sapeva quello che sarebbe accaduto. E Dio sin dall'inizio ha voluto dire a noi, Chiesa, non rifatevi solo, esclusivamente a quelle che sono le attività di Chiesa, per quello che è l'esercizio e la chiamata ministeriale che Dio vi sta rivolgendo. Ciascuno di noi è chiamato a un livello di disciplina, a un livello di impegno individuale, anche l'evangelizzazione. È bello poterla vivere insieme. Vi ricordate nel 2019 abbiamo vissuto forse uno degli eventi più straordinari evangelistici, qui a Modugno. Abbiamo fatto un evento in piazza, sono venute decine e decine di ragazzi dall'estero, in modo particolare dalla Norvegia, a darci una mano per invadere letteralmente la città di Modugno. È stato un progetto bellissimo, è stato un'attività di impatto. Però che cosa ha voluto il Signore insegnarci attraverso quell'occasione? Che la Chiesa ha una missione da svolgere. E questa missione la deve svolgere sia a livello comunitario, sia a livello individuale. Dio ha permesso che piovesse. Ve lo ricordate? Dio ha permesso che si interrompesse a un certo punto il programma evangelistico. E quando si è interrotto è diventato ancora più glorioso per me. Perché non potevamo utilizzare il palco, non potevamo utilizzare la strumentazione, non potevamo usufruire dei ballerini professionisti, ed è lì che loro si sono dovuti impegnare, i ragazzi che sono venuti dall'estero si sono dovuti impegnare a smontare, salvare la strumentazione. Noi come Chiesa, non rinunciando all'evangelizzazione, abbiamo cominciato a prendere il microfono in mano e a testimoniare, ciascuno di noi. Non più l'evangelista che veniva dalla Norvegia, che in quei giorni aveva evangelizzato, ma ciascuno di noi, molti di noi hanno evangelizzato in quella sera. Che cosa ha voluto dire il Signore? Il Signore ha voluto riportare quella che è un'attività che dobbiamo vivere insieme a quella che è una responsabilità anche che dobbiamo vivere individualmente. Uno in più è proprio questo. E durante il 2020, poi a un certo punto, il Signore mi ha ispirato proprio questo acronimo, ve lo ricordate? L'acronimo Parlami. Perché ho realizzato quanto fosse importante in questa stagione, in questo tempo, che noi andassimo a scavare in quella che è la disciplina e in quelle che sono le attività che rendono forte la nostra relazione con Dio individuale, personale, di ogni giorno. E poi Mike ha predicato il 10 di gennaio, il mio compleanno, e ha detto: io sento che il Signore per la nostra Chiesa e per me individualmente in questo nuovo anno ci sta chiamando in due direzioni. A conoscere Dio e a farlo conoscere. E io mi sono ricordato di Parlami e di Uno in più. E quello che noi vogliamo vivere in questo anno è responsabilizzarci proprio in queste due direzioni. Conoscere Dio di più. Conoscere Dio di più a livello di comunità, di chiesa, ma anche a livello personale, individuale di ciascuno di noi. E far conoscere Dio agli altri, come Chiesa, nella misura che potremo in un anno così particolare, ma in una misura che mai potrà essere interrotta, che è quella individuale di ciascuno di noi che evangelizza. Ci piace? Questo è quello che noi vogliamo fare. Vogliamo un attimo alzarci in piedi. Puoi tu ora, in questo momento, decidere di scendere in campo. Perché vedete, queste sono belle parole e possono essere anche di ispirazione, però rimangono parole. Quello che Dio vuole da parte di ciascuno di noi è la scelta. Puoi avere una bella apparenza, no? Come io a Mottola, ben vestito da calciatore, e puoi scendere in campo ed essere entusiasta che sei stato scelto. Ciò che fa la differenza è il tuo essere determinato a giocare la partita, il tuo essere determinato a fare una scelta per te stesso insieme ad altri. Ed è questo quello che il Signore vuole che noi facciamo in questo momento. Vogliamo chiudere un attimo gli occhi. Se tu questa mattina dici sì, io voglio che quest'anno sia un anno nel quale io conosco di più Dio e lo faccio conoscere, allora ti chiedo di alzare tutte e due le tue mani, ma non lo fare superficialmente. Pensaci, è una scelta, è una posizione, è un orientamento che scegli di abbracciare. E io voglio pregare per noi come Chiesa affinché questa scelta ci possa accompagnare durante tutto l'anno. Padre, noi vogliamo scegliere te. Padre, noi vogliamo conoscerti di più, sperimentarti di più e rendere accessibile l'Evangelo anche ad altri. Vogliamo essere mezzi e strumenti nelle tue mani affinché altri possano conoscere la salvezza che tu hai offerto e hai dato a noi. Signore, io prego per chiunque è qui con le proprie mani alzate e dice sì, questo è quello che io voglio e magari non ha le forze, si sente debole, si sente disorientato. Io prego la potenza dello Spirito Santo. Spirito Santo, io ti chiedo di scendere. Spirito Santo, senza di te noi non possiamo essere animati da un'autodisciplina sufficiente. La nostra motivazione, la nostra spinta, la nostra forza nell'andare ed essere testimoni tuoi può venire solo da te, può venire solo da quel battesimo e da quella pienezza che tu ci dai, Spirito Santo. Per questo io prego che ciascuno di noi possa essere riempito. In questo momento, Spirito Santo, scendi e riempici. Alleluia. Se vuoi conoscere di più Dio, se vuoi farlo conoscere di più ad altri, questo parte da una scelta fondamentale. La scelta fondamentale di non vedere Cristo ed essere affascinato dalla sua vita, leggere i Vangeli, leggere la Bibbia, sapere chi Lui è e limitarti a questo, nasce da una scelta fondamentale che è quella di vivere Cristo, essere uno in Cristo, decidere di avere Cristo nel tuo cuore, camminare come Cristo ha camminato. Questo è il vero appello che Dio fa a noi oggi, sua Chiesa, suo popolo. Essere uno in Lui. E nel momento in cui siamo uno con Cristo, inevitabilmente diventiamo uno gli uni con gli altri. Se stai decidendo questo, in questo momento io voglio pregare per te. E ti chiedo di ripetere questa preghiera. Questo vale per chi sceglie questa cosa per la prima volta, ma io voglio estenderla in modo particolare alle tante persone che vedo davanti a me che sono credenti, che sono cristiani, che sono nati di nuovo e che vogliono rinnovare la loro scelta di essere pienamente in Cristo. Se questa è la tua scelta, ad alta voce, in maniera forte e decisa, ripeti con me queste parole. Signore Gesù, io voglio essere uno con te. Io voglio camminare come tu hai camminato. E voglio percorrere questa vita spinto e guidato da te. Voglio trovare orientamento nelle tue indicazioni. Voglio sentire il tuo spirito. Voglio essere ripieno di te. Amen. Amen. Amen. Vogliamo accomodarci un attimo. Vedete, io vorrei concludere questo messaggio leggendo per voi quello che c'è scritto in Ebrei 3. Perché quello che c'è scritto in Ebrei 3 è molto bello, in quanto ci riporta all'esperienza del popolo di Israele di cui stiamo leggendo tutti insieme. E qui l'autore degli Ebrei fa un riferimento a quella che è stata la ribellione del popolo di Israele. E quello che noi ci stiamo accorgendo ora nella lettura dell'Esodo è che quella lotta, quel conflitto che c'era prima tra Dio e Faraone, tra un Dio giusto che dava occasione al Faraone di ravvedersi e di non essere ribelle, di ubbidire alle sue istruzioni, ora questo conflitto lo si vede alla stessa maniera tra il popolo di Israele e Dio. E ci fa comprendere questo, che non era poi tanto male solo Faraone, ma era male anche marcio il popolo di Israele. E ci porta l'autore degli Ebrei a renderci conto che noi tutti viviamo di quella stessa possibile ribellione che deve essere vinta, combattuta e lasciata, abbandonata. Ed è per questo che stiamo leggendo Esodo insieme, perché vogliamo prendere il buon esempio e vogliamo agire di conseguenza. E quindi voglio leggervi questi versi che si trovano in Ebrei al capitolo 3, che dicono: perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Ascoltate ora, badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo ubbidito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. L'autore degli Ebrei sta facendo appello a noi, popolo di Dio, oggi, di prendere un insegnamento dal popolo di Israele liberato dall'Egitto e non fare lo stesso errore di mancare di fiducia in Dio, di non avere una relazione nella quale ti fidi, ti confidi, ti sottometti a Lui, ma lo tenti, ti ribelli mormori. Dio vuole un popolo che è unito nella stessa battaglia, nella stessa gara per conquistare le promesse che Lui ha per noi. E la scelta che noi dobbiamo fare è proprio questa, quella di essere una santa alleanza che persegue la santità. Una santa alleanza che persegue insieme, in unità, la fiducia in Dio, la relazione con Dio. Vedete il verso che ho sottolineato nella mia Bibbia, dice esortatevi, è il verso 13, esortatevi a vicenda, leggetelo con me, ogni, lo leggiamo di nuovo, esortatevi a vicenda ogni giorno chiesa, finché si può dire oggi, finché si può dire oggi. Nel 2021 noi faremo ogni sforzo affinché ogni giorno ognuno di noi viva Cristo. Amen. Nel 2021 noi ci impegniamo e faremo ogni sforzo affinché ogni giorno, non la domenica, non una volta al mese, non due volte a settimana, ogni giorno. Il nostro impegno è un impegno a vivere Cristo ogni giorno. Noi faremo ogni sforzo affinché ogni giorno ognuno di noi viva Cristo. Per questo io voglio coinvolgere tutti voi nell'impegno che vedete che io ci sto mettendo. Per chi è nel gruppo di Facebook ogni giorno a esortarvi a leggere il capitolo del giorno, a dare un commento. Mio malgrado, oggi qualcuno mi ha detto leggo ogni giorno il tuo commento, ma non leggo il capitolo. Potete fare per piacere l'inverso, per piacere, leggete il capitolo, ma non leggete il mio commento sul capitolo, va bene? È molto più importante, molto, molto più importante. Che ogni giorno ciascuno di noi legga la Bibbia, che ogni giorno ciascuno di noi viva la preghiera, che ogni giorno ciascuno di noi vivi una relazione radicata e stabile in Cristo, che ogni giorno ciascuno di noi sia ben disciplinato affinché nella crisi che viviamo rimaniamo una chiesa stabile che poi quando si riunisce ha la possibilità di spingersi oltre. Amen. Questo è l'impegno per il 2021 e la prossima settimana parleremo ancora meglio di come far conoscere Cristo agli altri. Però vogliamo alzarci ancora una volta in piedi. E verso quelle stesse persone per cui hai pregato prima, girati e digli ogni giorno. Digli, guardalo negli occhi e digli ogni giorno. L'impegno è per ogni giorno. Ogni giorno. Quindi domani che faremo? Mi puoi rimettere la slide? Ah, c'è già. Ci impegneremo a fare cosa? A pregare. A adorare. A ringraziare. A leggere. Vi do un indizio, c'è scritto al lato qua. Perché qualcuno sta leggendo la lettera e si sta facendo uno sforzo di memoria. Però sta scritto proprio lì, al lato. Leggere, poi ascoltare la parola di Dio, poi meditare la parola di Dio e poi invitare lo Spirito Santo. Amen. Lo vogliamo fare? Amen. Amen. Vogliamo adorare ancora il Signore insieme e poi concludiamo questo incontro. Forza Chiesa, immergiamoci alla Sua presenza.